viene vissuto il calcio da voi? Sono stato a Sudafrica per questo match. Ah. Il calcio qui è strano, perché il calcio è grande, ma è un grande cosa per i giocatori, anche per i bambini. I ragazzi, tutti giocano il calcio, ma per i tifosi, non sono i tifosi. E per questo è difficile per noi, perché è anche per gli strani che pensano che non c'è calcio qui. Ma infatti abbiamo molti tifosi del calcio. Qui possiamo vedere un weekend. Per un weekend io posso vedere 6-7 match ogni weekend su televisione. E ci sono dei tifosi di calcio, ma non sono molto serie, non c'è molto passione. Sì, giusto. Sì, e anche non abbiamo la Lega, non è molto grande, allora è difficile in questo modo. Anche la Lega non è Serie A, non è il Premier League, allora per noi è molto la nazionale. Sì, e anche il mondiale è grandissimo per noi, nonostante Beckham ancora la Lega. Beckham. Nonostante lui, non è ancora, diciamo, il campionato, la Lega non è ancora così importante. È vero, anche perché lui vuole giocare per Inghilterra sul mondiale. Il Capello ha detto non puoi giocare in America in questa lega se vuoi giocare nel mondiale. Okay. È giusto, Capello, è giusto. Ha ragione. Sì, ha ragione. Ci sono tanti giocatori americani che stanno, c'è arrivato Onyewu al Milan, adesso sembra che possa arrivare anche Donovan, sono tutti giocatori di grande lustro in questo momento. Sì. Come li puoi presentare agli italiani questi calciatori? Onyewu adesso è con Milan, Sì. E lui è molto forte, non è molto tecnico, ma penso che lui è un champion. Mm-hmm. Ha una mentalità di un champion. Allora per Milan è stato come si dice, acquisition, un acquisto acquisto perfetto, perché non è molto costo solo, allora non è molto caro, scusa, sì. Non è molto caro, è un buon giocatore. Landon Donovan, secondo me, può giocare in Italia molto bene, perché lui è bravo, lui è un giocatore bravo e può giocare in Italia per